Salve, siamo Giorgio e Francesca e siamo qui oggi a Radio Vostok per la quinta puntata del podcast che celebra il ventennale di Sodalis, ente del terzo settore, nonché centro servizi per il volontariato con sede a Salerno. Con noi c'è Giuliano Califano. Partiamo subito con la prima domanda. Il 2004 è stato l'anno di fondazione di Sodalis. Cosa ricorda di quell'anno e della fondazione di quest'ente? Noi ci siamo costituiti, eravamo così un gruppo di associazioni sul territorio, abbiamo deciso di vederci insieme e nel 2004 diventa CSV. E quindi il primo staff del 2005 è nato così, con amicizia, con fraternità, non ci sono state votazioni vere e proprie, insomma, ecco, anche perché il nome Sodalis è stato un nome che ho dato io e che ho mi è stato chiesto di prendere in prestito, che è diventato Centro Servizi Sodalis. Chiaro, chiaro. E c'è stato un momento particolarmente positivo nella storia di Sodalis che lei ricorda nello specifico? Beh, quando abbiamo rinnovato nel 2006 le cariche, insomma, di consigliere, di presidente, per la prima volta nel 2006, diciamo che abbiamo visto che il movimento aumentava, molte associazioni, molti presidenti di associazioni venivano a chiederci di iscrizione, probabilmente perché in due anni, dal 2004 al 2006, avevamo fatto bene e quindi la curiosità dei consiglieri, dei presidenti delle associazioni ha fatto sì che poi crescevamo veramente in batter d'occhio come associazione, insomma. Ok, quindi abbiamo parlato del lato positivo, ma invece per lei c'è stato un momento negativo e se si ricorda come è stato superato in qualche modo? Ma diciamo che negativi ci sono stati gli impegni che abbiamo preso, che probabilmente forse in alcuni casi non riusciamo a sostenere perché non avevamo la sede adatta, cioè piccole cose, perché poi i momenti negativi nel volontariato si cerca di nasconderli con quelli positivi, in effetti, quindi veri e propri momenti negativi non li ho vissuti, insomma, probabilmente non me ne sono accorto, voglio dire, di momenti negativi. E in questi 20 anni trascorsi Sodalis ha fatto comunque molta strada. Ci racconta un aneddoto che le è rimasto impresso? Ma un aneddoto, sicuramente sono tante le situazioni per cui posso ricordare positivi, ma il cambio di sede che abbiamo avuto la prima volta forse è l'aneddoto migliore, perché praticamente siamo andati al centro di Salerno, vicino al ponte, al Trincerone, e il proprietario non voleva darci questa sede per scopi sociali, insomma, ecco, perché pensava che entravamo e non uscivamo più. In effetti per noi era un punto di passaggio, non né di partenza né di arrivo, un punto di passaggio per sì che poi l'associazione, crescendo, trovasse una sede più consona. E quindi l'aneddoto è stato questo qua, probabilmente un aneddoto, forse ecco, quando si ritrova a negativo, ma che poi è diventato positivo perché poi dopo ci siamo trasferiti in una nuova sede, insomma. Perfetto. Per quanto riguarda invece la prospettiva futura, come immagina i centri sociali per il volontariato tra qualche anno, sia in generale che a Salerno, ovviamente? Ma sicuramente sulla scia di quello che abbiamo fatto noi, che hanno fatto poi successivamente a noi consiglieri che abbiamo fondato l'associazione, una crescita notevole, di richiesta, cioè le richieste ce ne sono tante, se si riesce ad evadere un po' le richieste di tutti o la parte di tutti, già questo potrebbe essere una prospettiva importante. I centri servizi devono essere tra virgolette, dico questo, a disposizione delle persone, della gente che chiede, perché molte volte chiedono anche cose che non possiamo fare o che non possono fare. Però voglio dire, confrontandoci con altri centri di servizi italiani, credo che il nostro centro di servizi sia uno dei migliori. Bene, ottimo. E stiamo per concludere la nostra intervista, quindi le volevamo chiedere se vuole lasciare un augurio al centro servizi di Salerno. Ma il mio augurio, l'ho detto prima, è quello di migliorare sempre di più i servizi, di essere sempre più vicini alle associazioni, alle piccole associazioni, perché poi le associazioni un po' quelle che presenti un po' più in più regioni d'Italia sono un po' più, tra virgolette, coperte, ma anche loro hanno i problemi sicuramente. Però vicino alle piccole associazioni e creare semmai una struttura aperta più tempo a disposizione delle persone che ne chiedono aiuto. Grazie mille per essere stato a Radio Vostok e grazie anche per la disponibilità a fare questa intervista. Grazie a voi e grazie a Sodalis.